Vi aggiorneremo sulle condizioni del cucciolo di Panda nella prossima edizione, ma parliamo di musica. Come sapete, sono passati 40 anni dalla rivoluzione culturale del 68. Tra i vari artisti che ci stanno ammorbando con questo argomento, non poteva mancare Caparezza. Il cantautore pugliese sta infatti tenendo un concerto per celebrare questo scoppiettante anniversario. Colleghiamoci allora in diretta con il palco. 40 anni fa, Jimi Hendrix portò la rivoluzione in Italia con una piccola serie di concerti. Era il 1968. Per celebrare questo anniversario indosserò una Stratocaster. Una 968 gruppi nelle band, semi nudi su Electric Ladyland, Jimi Hendrix e Ginseng. Dio si chiama Zappa, Frank Vincent. A Chicago dalle Blaster Caster posso farmi un calco delle parti basse, dischi di carne dal Master Casse. Mentre nel 2000 ciò che passa è Casper, Nail, Rain, Raster Buster, dai Ghetto Blaster, Rap Gangster, fuoco Black Rock sul Blockbuster. Siamo Black Panther o Ghostbusters, War Masters coi Panzer, eroi ma coi Pampers. Le rivoluzioni sono scomparse, vedo in giro solo foto pornazze. Quanti credono nel 68 e quanti vedono del sesso in tutto? Quanti credono nel 68 e quanti vedono del sesso in tutto? 68, sesso in tutto. Quanti credono nel 68 e quanti vedono del sesso in tutto? 68, sesso in tutto. Tu in pratica a scuola sei una chiavica, daresti fuoco all'istituto con la tanica, ma da ieri ci torni volentieri. Che miracoli che fa la supplente di matematica, le tocchi la natica, lei mi agola, ti fai le pippe sul teorema di Pitagora. Scolari sono coatti tali che il Pierino di Vitali è una figura aristocratica. Che fine ha fatto la protesta studentesca, sodomizzata in una fresca da palestra? Il 68 è un interrogativo, ma il numero successivo ti resta nella testa. I fricchettoni vollero cambiare il mondo, quelli del mio mondo vogliono guardare il porno. Le edicole ridotte ad esporre più pompe delle flotte nel porto di Livorno. Quanti credono nel 68 e quanti vedono del sesso in tutto? 68, sesso in tutto. Quanti credono nel 68 e quanti vedono del sesso in tutto? 68, sesso in tutto. Nel 68 ti infanghi a Woodstock, nel 2008 ti infanghi a Woodcock. C'è un nuovo cartello al sexy shop, pagherete caro, pagherete tutto. Bella, nei locali giusti del centro balli con i belli imbusti del momento. Ti diranno di non prostituirti, ma di andarci a letto previo equo pagamento. A 13 anni hai già un rapporto di sesso in una chat parental control con uno che ti offende molto, e nemmeno vuoi che si metta il Norton. La praga dilaga l'inverno, la piaga dell'uomo moderno è passare le notti con gli occhi sullo schermo per diventare adulto con un click su confermo. La carica dell'amplificatore generò un varco spazio-temporale dal quale comparve una giovane ragazza del 1968. Ma dove sono? Tu non sei Jimi Hendrix? Non sei un po' troppo giovane per l'LSD? Comunque io mi chiamo Caparezza. Ah, io mi chiamo Ilaria. Ilaria, Ilaria, Ilaria, Ilaria, Ilaria, Ilaria, Ilaria.